Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari amiche e cari amici, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua Antonio anche stasera per la nostra ora che si spera sia piacevole per i nostri ascoltatori. Lo speriamo tanto. Almeno così mi dicono, ecco. Benissimo. Bene. Allora Antonio. Allora diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Con un saluto cordiale al nostro coordinatore e al nostro regista. Ecco, a tutti e due un salutone. Benissimo, allora cosa dici che abbiamo stasera? Questa sera abbiamo un personaggio straordinario, un bassanese d'adozione che parla della nobile città di Bassano del Grappa ancora una volta. Sai con che entusiasmo lei prepara le sue trasmissioni. Decisamente. Va bene, ma allora prima di metterci in contatto con la signora Elide Bellotti Imperatori, ci ascoltiamo la prima canzone in programma che è Quando, cantata da Tony Renis. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, per improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Quando, e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. La, la, la. Non ci lasceremo mai, e baciandomi dirà. Eccoci di nuovo in studio con la nostra signora Elide Bellotti Imperatori. Buonasera signora. Buonasera. Buonasera signora. Bentornata. Grazie, ecco. Grazie a voi, bentrovati. Grazie. Comunque siamo sempre contenti di sentirla. Grazie. Ecco, allora, quindi stasera ci parlerà? Dunque, questa sera un tema un po' particolare direi, però forse legato molto alle storie de Noaltri. Ecco, quindi tanto per rifarmi anche al titolo di questa trasmissione, trovo molto piacevole. Ecco, allora siccome finora ho parlato di molte cose più legate alla mia città, così questa volta ho scelto un tema diciamo attualità. Ecco, allora posso intanto prego. Ecco, salutare i nostri ascoltatori, perché dopo un breve intervallo mi pare che ci ritroviamo appunto per queste storie tra noi altri. Sì. Ecco così proprio come suona il titolo di questa trasmissione. Dunque, tutti gli argomenti, allora, come dicevo poco fa, vi ho già proposto, finora in parte sono stati legati alla mia città, a Bassano, e mi auguro pertanto che ne abbiano dato almeno in parte il senso della sua storia, il ricordo della sua raccolta bellezza e della simpatia che ispira dai bassanesi, in massima parte. E anche da lei. Grazie. In massima parte di spirito sereno. Ecco, in questi ultimi giorni il tempo inclemente ci ha reso forse insofferenti e ci ha sorpreso spesso sui ponti a guardare con preoccupazione le acque rapide del nostro Brenta. Stamane invece era molto bello. È poetica e bella la visione che si ha dal ponte, soprattutto dal Ponte Vecchio, con alle spalle le montagne azzurrate che fanno proprio da sfondo allo scorrere del fiume, il grappa imbiancato dalla neve, alzando gli occhi naturalmente si vede questa bella immagine, e poi l'oscura valle che si apre a nord, così come il verde dei colli che si innalzano verso l'altipiano di Asiago, quindi direi una visione bucolica, sì, proprio, sì. Ecco, che io scopro ogni volta con molto piacere, ogni volta che mi affaccio dalla balconata, ogni volta che mi sorprendo a trovare quasi cose nuove, spunti nuovi. Infatti, per esempio, le case all'intorno, che sono anche in colori vivaci, che riprendono sempre i colori del tempo antico, sembrano quasi respirare, restituire lo spirito di quanti li abitano, ma soprattutto se sono spalancate al sole, c'è il riflesso del brillio dei vetri, che è come veramente colpisce, ecco, una cosa che ogni volta lascia stupiti. Il centro storico invece ha la solennità di sempre, nei suoi bei palazzi, nella torre civica, nella loggia di piazza, nell'azzurro dell'orologio del Ferracina e soprattutto nelle piazze che si rincorrono l'una nell'altra, quasi scenografia per quanti le percorrono. Quindi percorrendo le piazze ci sentiamo sempre un po' attori. Mi piacciono molto le mamme con i loro piccoli, con le carrozzine, molto, che mi riportano al tempo dolce della maternità. Certo. Ecco, l'eleganza appunto delle carrozzine, come lei ha già motivato, ecco, e il chiaro delle belle copertine, ecco, e le morbide così, dalle quali sporgono di solito le testine e gli occhietti pronti al sorriso, sì, dei bambini. Dico, guardarli è sempre ritrovare serenità, è riacquistare fiducia nella vita, ma soprattutto quella speranza che molti hanno perduta in un mondo migliore. Volutamente oggi però desidero tralasciare le pagine di storia cittadina, ecco, ne ho fatto così un breve piccolo ritratto per riportarvi tra noi, però volevo tralasciare di parlare della storia, così come fatto rivivere nella ballata del millennio nel 1998, rimandando quindi il tutto, avremo ancora due quadri da presentare, ad altri nostri incontri. Benissimo. Invece oggi il nostro discorso volevo riportarlo al carnevale, cioè calendario celebra proprio in questi giorni. Sì. E parlare del carnevale non possiamo ignorare delle sue origini, specialmente per quanto ci riguarda. Ecco, perché fin dal secolo X a Venezia, nei giorni che precedevano la Quaresima, il popolo si dice a rumorosi sollazzi. Si ricordavano così le tradizioni dei baccanali, dei lupercali, lasciati in ricordo dai costumi romani, feste che diedero origine quindi al carnevale, del quale si trova cenno nel 1094 in una carta del doge Vitale Faliero e riferita dal Dandolo nella sua cronaca. La parola carnevale volle probabilmente indicare in origine la notte innanzi la Quaresima e il carnem laxare, cioè il lasciare la carne nel periodo di penitenza che precedeva e precede la Santa Pasqua. Varie leggi, invece durante la festa, ne regolarono a Venezia l'uso della maschera e del travestimento, ma nel tempo in cui erano permessi, il desiderio di nascondere il viso sotto la larva, così veniva chiamato il volto di cartapesta, divenne universale, tanto che i fabbricatori di maschere prosperarono al punto da farne un ramo speciale dell'arte dei pittori. La città viveva in grandi feste, in banchetti, nei quali spesso si mescolavano nobili e plebei, famose le confraternite, artigianali in massimo, per l'organizzazione delle feste e dei banchetti, ma fra i giovani nobili nacque una confraternita che fu detta della calza, perché come distintivo i suoi componenti portavano sulla calza un particolare ricamo. Ma a questo punto non so se vale la pena di fermarsi un attimo per darci un po' di quella gioia, un po' di quel movimento che Venezia, che faceva vivere questa città ricca, opulenta, questa città di tarsi e di marmo, di palazzi bellissimi, e non so, l'idea delle maschere che scivolano con le gondole sotto i ponti mi sembra talmente bella da volerla così meditare un attimo, magari ascoltando una bella canzone. Benissimo. Allora, ci ascoltiamo Gianni Morandi in una canzone degli anni 60, Ma chi se ne importa? No, non torna il conto, ho dato tanto e niente per me ci resta. Fa sempre così, che donna lei, quando si pente, piange davvero, non è come me. Di nuovo in studio con la nostra signora. Benissimo. Si vive una volta soltanto, ho sentito cosa mi detto. Piace che Morandi dica che un giorno d'amore lui vale più di cent'anni. Importante. Ed anche il peccato che al mondo si viva una volta soltanto. Sì. Direi che questa è la cosa che più ci dà da pensare. Perché non è facile vivere bene questa volta che ci tocca. Infatti. Insomma, la prossima volta forse vivremo. Lo cerchiamo tutti, però non si sa mai come finiscono le idee e le cose. Comunque, ritornando a Venezia, sì, posso dire che l'allegria si diffondeva per tutta la città e si faceva sentire più intensamente, certamente, a San Marco. Nel Giovedì Grasso c'era la presenza del doge, della signoria, degli ambasciatori. Si accendevano nella piazzetta fuochi artificiali anche in pieno giorno. Le compagnie dei fabbri e dei beccai, abbigliati bizzarramente, tagliavano la testa ai buoi. A diciamo rappresentare i sestieri arrivavano i castellani e i nicolotti per fare i giochi delle forze d'Ercole e della Moresca. Dall'alto del campanile, sopra una corda tesa, qualche ardito funambolo compiva il cosiddetto volo, scendendo fino al palco dove sedeva il doge, a cui presentava un mazzolino di fiori, ed intanto passavano le maschere schiamazzando e gettando confetti. Ma che buono! Ecco, questa usanza, naturalmente, fu emulata anche dalle città dell'entroterra, e quindi anche Bassano è presa dall'idea del carnevale, certamente. Bassano, che è sempre stata considerata un po' la porta di Venezia, allo sbocco del canale del Brenta, e che nel Cinquecento era una città dipinta, volendo emulare proprio le tarsie di marmo, le bellissime architetture della città lagunare. Ecco, quindi gli splendori di Venezia, sia nelle architetture che soprattutto nelle abitudini di vita, venivano sempre emulate in certo senso, tanto che per esempio gli stessi podestà favorivano, che i podestà voi sapete che erano chiamati a reggere, a governare, sì, le, sì, piccole città sotto l'imperio del leone alato, favorivano le feste che ancora oggi in questo periodo dell'anno fanno vivere i centri storici con mascherate, feste dedicate ai bambini, cibi grassi ed adatti a buone bevute e buone dolci frittelle, caratteristici. Cioè, c'è questo senso di vita che torna, così come veniva intensamente vissuta a Venezia. Ecco, di Bassano si ricordano, perché sono sempre state famose, delle mascherate improvvisate nel tempo da capi ameni cittadini, di balli in locali diversi con orchestre prestigiose, delle sfilate dei carri mascherati in aperta gone fra di loro. Ecco, io che sono arrivata a Bassano subito dopo, posso dire, la Seconda Guerra Mondiale, come giovane sposa, fui molto sorpresa dalla vitalità dei bassanesi, i quali non perdevano momento per mettersi in maschera, ecco, e soprattutto dei volti mascherati, cosa che nella mia grande città non avevo mai visto, perché a Roma purtroppo la tradizione del carnevale era già tramontata da molto tempo. Peccato. Ecco, quindi sono delle cose che credo di avere molto goduto all'inizio della mia vita in questa città, e penso che anche voi, una vicina Treviso, abbia sentito parlare di tutto questo, visto di persona, certo, certamente, ci sono in quando vi sto narrando, perché mi ricordo che nella nostra città arrivavano allora dei treni speciali da tutto il Veneto, che, o Pullman, così, per venire al carnevale di Bassano, e allora addirittura c'era odore di crostoli e fritto per tutte le strade, sì, nuvole che di coriandoli, ma soprattutto il senso della serenità che spirava dalle persone, da grandi e piccoli, ecco, e soprattutto da queste persone in maschera che non mancavano di fare anche piccoli dispetti o gentilezze, perché devo dire che a volte sotto i volti mascherati, magari con un poi domino che rivestiva tutto il corpo, riuscivano veramente a cambiare identità, cioè nessuno di noi si accorgeva di chi in quel momento stesse facendo un complimento o stesse essere protagonista di un piccolo scherzo, di una piccola scena, perché la maschera in effetti, specialmente cambiando un po' il tono di voce, riusciva a dare un incognito eccezionale a tutti quanti. È vero. Ecco, direi che queste cose, molto più in piccolo, naturalmente si ripeteranno in questi giorni e nei prossimi giorni, soprattutto quali sabato 1 marzo, con una sofisticata e bella sfilata notturna dei carri. Gli stessi sfileranno poi nel pomeriggio di domenica 2 con l'assegnazione del Nason d'Oro al migliore di essi, per giudizio espresso da una giuria tecnica e da una popolare. Martedì 3 invece, ultimo giorno di carnevale, ci sarà la grande festa in maschera per i piccoli bassanesi. Questa ha veramente una tradizione molto importante, che seguirà, a cui seguirà l'assegnazione della bautina d'argento alle maschere più originali. Chiaramente vengono premiate quelle ispirate dalla grande creatività che non è mai mancata alle mamme di Bassano. Più volte ho avuto il piacere di presiedere questa festa e di presentarla, di veder sfilare magari più di 100 bambini in maschera che ricordavano personaggi di favola, che ricordavano mestieri, che ricordavano non so, personaggi di fantasia soprattutto, ma a volte così bene presentati, così direi artisticamente, perché non era il costume, non è spesso per fortuna il costume che viene comperato già pronto, ma quello che l'idea di una mamma, sì, la sua creatività fa per il suo bambino, sì, o per la sua bambina, no? Sì, tramutandola in quel giorno, per quel giorno in qualcosa di totalmente speciale. Da noi li fanno questo martedì. Io mi sono sempre molto congratulata con le mamme di Bassano, perché la nostra festa dei bambini è sempre stata eccezionale, alla quale io non mancavo mai, o per giuria o per presiedere, ma soprattutto per presentare i bambini che un po' mi conoscono appunto come la nonna Elide di Bassano del Grappa, perché molti sono stati da me premiati, da me abbracciati, da me coccolati nel momento del carnevale dei bambini. Quest'anno non lo fa più la giuria? No, sono diventata troppo nonna Elide, non posso permettermi il lusso. Ruolo nobile, molte ore su un palco in piena piazza, anche perché il parlare stanca molto così in pubblico, così, sì, ecco. Certo. Però dico la verità, ho la soddisfazione ancora delle mamme che mi fermano e mi dicono: ci sarà quest'anno, vero nonna Elide? No, Elide, c'è troppi acciacchi adesso per affrontare il palco, insomma. Comunque ci sono sempre dei buoni presentatori, c'è una giuria di signore in genere, no? Di mamme o di nonne. Però con diciamo attitudini particolari, le sarte più brave della città, la giornalista che scrive più spesso della città, la signora che si occupa dell'abbigliamento dei bambini, cioè gente che ha un occhio un po' particolare. Che bello. Sì, certamente la giuria deve avere questo spirito, altrimenti che giuria è? Ecco, allora deve poter considerare per esempio il travestimento sotto tutte le caratteristiche che deve avere, no? Dalla fattura, intanto dall'idea soprattutto, certo. E poi dalla fattura, dalla grazia più o meno con la quale viene realizzato questa idea viene realizzata. Quindi certamente abbiamo visto nel trascorrere degli anni delle cose bellissime, dico la verità, una delle feste più belle di Bassano del Grappa, più importanti sotto il profilo, che le posso dire, dell'eleganza, ma soprattutto dell'abituare i bambini anche al travestimento, perché così potranno essere i cittadini di domani, sì, che conservano è vero. Il piacere del carnevale. Ma è bellissimo il carnevale, ma deve essere. Ma veramente, e quando bello. Noi educhiamo i bambini, quando una mamma ha questo spirito, educa il bambino anche a qualche cosa di gioioso, di bello, che rifarà a divenuto adulto, che si sentirà di dover proporre ai suoi figli, non so, ecco, prima quando tutti ci mascheravamo in questa città e c'erano le belle feste da ballo, ecco, c'era questo spirito tra i giovani anche, c'erano i ragazzi, gli universitari, l'AUB, Associazione Universitari Bassanesi, che mettevano in piedi delle feste da ballo eccezionali, con cantanti, con numeri di varietà, perché erano i giovani che da piccoli hanno stati mascherati, certo. E portati in piazza, certo. Ecco, vestiti da Arlecchino, poi c'è il periodo di Zorro, poi c'è il periodo della Fata Turchina, poi c'è il periodo della Principessa Primavera, ma insomma questo ripetersi ha un significato a mio avviso, ecco, sì. Perché i bambini proprio devono imparare, così come non so, insegniamo loro a contare, insegniamo a compitare nella lettura, dobbiamo anche insegnare il gusto il piacere dello stare con gli altri, certo. Io credo che non ci sia piacere più grande, almeno per me è stato così, quello del travestimento e di mettersi in mezzo agli altri, perché il carnevale va vissuto ad persona. Certo. Ecco, il fatto di assistere allo spettacolo non dà la stessa completa gioia che esserne invece personaggi. Da spettatori a protagonisti. Ma certo, ma noi vede, ci stiamo abituando troppo a fare gli spettatori con la televisione. Ecco, sì, quindi io delle volte guardo il pubblico e il pubblico delle volte neanche applaude. È così indifferente, così staccato, perché? Perché hanno perduto questo senso, direi, di ingenuità, di sorpresa, di fronte a quello che può essere il carro con la fantasiosa ricostruzione di cartapesta, con tutti i suoi movimenti. Ecco, per fortuna qui da noi c'è l'abitudine del carro animato, cioè metta caso una frazione fa il suo carro e tutti i componenti sono tutti in maschera e ballano davanti al carro, e cioè fanno una animazione del carro. Ecco, quindi questo è già qualcosa di più che assistere solo che al passaggio del carro. Quindi non lo so, io ho sempre caldeggiato molto questa festa, sono facendo parte della Pro Bassano, bisognava in continuazione dare idee, cercare di fare cose nuove, così, e ogni anno sono state fatte cose nuove, perché altrimenti sarebbe stato ripetitivo e basta. Questo carnevale mi ricorda la mia infanzia, perché anche noi a Mantova si viveva il carnevale in questo modo qua. Perché il piacere del travestimento, sì, io l'ho provato perché mi piaceva mascherarmi, dico la verità, adesso non posso più farlo, ma mi divertivo tanto, ecco, perché proprio è questo fatto di quasi cambiare personalità, dietro una maschera si è veramente diversi, no? Come quando si fa teatro, che si deve impersonare un personaggio, naturalmente uno deve entrare nell'anima anche del personaggio, conoscere un po' la storia, altrimenti che cos'è? Nulla. Ecco, e quindi la stessa cosa è nel travestimento, e a me piacevano tanto i bambini, me la godo tanto ancora adesso a vedermi mascherata. Mi piacciono i bambini, sì, che bello. Mi piace da morire, infatti credo che se per esempio, non so, farà freddo, di solito magari a questo punto devo stare a casa, ma altrimenti vado senz'altro il 3 alla festa dei bambini, sarò. Poi Bassano festaiola, naturalmente non si contenta della chiusura del carnevale, perché poi voi sapete che la sera dell'ultimo giorno c'è anche il fuoco della vecchia, cioè il fuoco della vecchia, questo grande fantoccio che sta a simboleggiare la fine della festa e anche la fine dell'inverno, cioè del tempo migliore che verrà. Da noi no, non c'è questo. Sì, è un'altra tradizione. Bella tradizione, lì so che c'è anche nel Trevigiano, perché nel Trevigiano si fanno le bubarate anche. Fa a metà quaresima da parte nostra. Sono belle tradizioni, bisogna un po' conoscerne lo spirito, ecco, perché veramente, non so, la sera dell'Epifania non si bruciava la vecchia, si bruciava proprio il tempo, come, no? E nel Trevigiano raccoglievano tutte le... i tralci secchi dei campi e li bruciavano. E mi ricordo che i ragazzi saltavano i fuochi. Esattamente. Insomma, sono delle cose belle. E poi si cantava, com'era, panevin, dunque, la luganega sotto il camino. La pinza sotto il camino. Panevino e luganega, l'abbondanza nella cucina patriarcale. L'abbondanza nella cucina patriarcale. Ecco, queste sono, insomma, le cose che a me piace ricordare del carnevale. Infatti, come dicevo, finirà anche qui da noi bruciando la vecchia, però il giorno dopo c'è un appendice che si chiama il carnevaletto. Beh, allora adesso ci fermiamo per una canzone. Allora ci ascoltiamo da Irene Fargo, La donna di Ibsen. Guardava il mare, lei, quel mare calmo, pieno di foschie, chiaro di stelle, leggero. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra signora Elide per un prosieguo. Prego. Allora finiamo di parlare del nostro carnevale finendo a Carnevaletto, sì. Perché i bassanesi di grande spirito, dopo aver ricevuto le ceneri, naturalmente con spirito devoto, direi che festeggiavano il Carnevaletto con una gita fuori porta e mangiavano bigoli in salsa, baccalà in diversi modi di cottura, fagioli in salsa, radici de campo, insomma, un pranzo un po' particolare, proprio dedicato al Carnevaletto. E così, diciamo, si chiudeva allegramente anche il mercoledì delle ceneri, che la Chiesa invece dà come apertura della Quaresima, e quindi periodo di penitenza. E vabbè, sarà stata anche penitenza a mangiar bene, ma insomma, poca penitenza a mangiar bene. Ma... Nel rito ambrosiano il carnevale finisce di sabato. Ne ha una settimana in più. Infatti, sì. Non so, io mi ricordo che sono andata qualche volta a Milano, dove viveva una mia figlia, e allora finivamo di far carnevale a Milano, perché durava una settimana in più, Infatti, proprio per il rito ambrosiano. Da noi no, da noi con il, diciamo, addirittura nelle campagne suonavano le campane a mezzanotte, no? A mezzanotte del martedì grasso, per indicare che la festa era finita, che cominciava il periodo della penitenza. I bassanesi, che sono sempre stati un po' più allegri degli altri, evidentemente anche il giorno delle ceneri hanno questo prolungamento del carnevaletto, che ancora viene rispettato anche con i piatti di rito, mangiare un buon baccalà alla vicentina, sì. Oppure alla frattona, oppure addirittura mantecato, cioè in modi diversi, ecco, per così celebrare, però mangiando cose già da quaresima, cioè da vigilia, ecco, mangiarle un po' per devozione e un po' perché fa piacere, ecco, finire così le feste del carnevale e poi avviarsi ad una quaresima che appunto ci porterà verso la Santa Pasqua anche quest'anno. Ci sono delle poesie dedicate al carnevale? Una cosa che volevo offrirvi, sì? Proprio così per chiudere questa... Sì? Nostra conversazione su cose allegre, sono tre satire scritte da Gino Pistorello, quindi dall'Arcadia, io la considero l'Arcadia dialettale bassanese, come abbiamo detto l'altra volta. Sì. Queste tre divertenti poesie possono farci sorridere, ma anche, come sempre, pensare. Allora, la prima è intitolata La Pipa. La pipa è un miracolo che è il più gran portento che sia mai sta inventato de sotto il firmamento. Sia longa, curta o storta, sia chiara oppure nera, parliamo di rispetto, la è una gran bandiera. Noi né sere d'inverno, con un goto de bon vin, i nervi la tesmola de fianco del camin, mentre di sta, cobatte il sol leon, par via deriva il fumo fresco che pare il fa sombria. La tacca, un po' quando la femmina la tacca a radigar, me fascia una pipata senza più bestemar. Ai bambinei da latte, caran curar te tocca, sgnacche che via quel ciuccio, mette la pipa in bocca, così sto putetto ben presto imparerà ad impiparsi sempre di quel che venirà. Uomini, tosi, femmine, poaretti, vecchi signori, intelligenti e mone, ignoranti e grandottori, fumè senza pensieri, trovando ispiration, sta pipa benedetta, tirando con passion. Ho scritto, quando aveva male i denti oppure i cai, i conta che pipasse pure per l'incocai. È divertente, bello, no. La pipa, ecco, allora diciamo, mi piace il consiglio di insegnare ai bambini a impiparsi di quel certo, che certo. D'altra parte, piangere sulle cose non serve molto. Ecco, no, tanto non si cambia. Fa più, diciamo, uno spirito deciso anche nella vita che lamentarsi tanto. La seconda è intitolata e il funerale, e qui è proprio di una satira pungente, ma anche questa che dà da pensare. Allora, e il funerale, che verse il funerale se il capo becca morti col muso de occasion e a baretta da mezzo generale. Do file de orfanei che par tanti granei, do file de vecetti che savaria e un prete con la cotta che ogni tanto borbotta. Ghirlande, fiori, besora del carretto. Il gera buon poaretto, anima santa e pia, e il gera un anzuetto. Rechim eterne in pace e così sia. Signor Beppi, come va la coi cai? Mi par che da Tonin, sono stato proprio ieri, i gabbia cambia vin. Così, tra pianti e lagni, si arriva agli albaretti. Cosa che par, signor Beppi? Adesso il garaffinio sto mostro qua da drio de pestarmi i calcagni. Rechim eterna in pace e così sia. Non sono così funerali. Che bello, sì, sì. No, è vero, sì, sì. È vero. Ecco, allora la satira è soprattutto questo, il mettere l'accento, a mio avviso, su qualche cosa che noi pensiamo di fare con serietà, certamente, a volte con un dolore partecipe, ma in fondo, il senso della vita riprende poi sempre tutti. Esattamente. Ecco. Sì, purtroppo sì. Ecco, per cui a un certo punto si può anche pensare di chiedere ad un tale come va il suo male ai piedi per i calli, o dare la notizia che in osteria è giunto del bombino. Così, veramente. Pensa che sia così, signora? Sì, senz'altro. Ecco, così. Allora il nostro buon Gino, che aveva questo spirito così anche caustico molto, ecco, con la stessa dolcezza con cui scrive poesie che ho già letto per voi, in queste satire riesce proprio a darti l'idea di quello che è il quotidiano, no? Il quotidiano triste e il quotidiano meno triste, ma soprattutto il far pensare. E questa è terribile, secondo me, è intitolata, la terza, La fabbrica dei vermi. A me mi fa da ridere pensare che in fondo siamo tutti uguali, gente de lusso, becchi, cardinai, servi, paroni, conti, lavandare. E il grasso con la pancia in sospensorio, e il re dell'arde quello del butiro, e il magro che me parna pena biro, e la ganga che sa Montecitorio, e il furbo che sa tutto par dispetto, e il mona che non dice neanche a pan, la sioretta in pellizza d'estracan, e il matto che secreta un rubinetto. Onorevole mio, non so che dire. Che dice, cavaliere? Ma l'onore è tutto mio, signor commendatore. Ma non vedi dove si va a finire? Una buona ontata d'olio degli infermi, quattro sospiri un sciocco e ciao, mia cara. Vestio depesso mi ti denogara, ma soci nella fabbrica dei vermi. Bellissima, terribile mamma mia. Però è la grande verità. Realistica, sì. Decisamente. Un po', sì. Siamo tutti uguali. Sì. Tutti uguali nel nascere, tutti uguali nel morire. Esatto. Come la livella un po'. Direi che proprio. Che sia un cardinale, che sia un parrocan. Siamo tutti uguali. Davanti alla morte, sì. Ecco, il finale addirittura ci distingue per casse, no? Dice, io depesso, cioè di ciliegio, di un ramo molto povero, insomma, sì. No? Ecco, depesso che sarebbe l'abete, sì. e ti de nogara, e la tua cassa noce. Invece importante di noce, siamo tutti avviati alla fabbrica, mamma mia, terribile. È brutto, ecco. Però sto bene. È vero, ecco. Non importa. Comunque, prendiamola con spirito carnevalesco, esatto. Ringraziamo come sempre Gino Pistorello alzando gli occhi, perché forse ci rende anche, diciamo, coscienti di determinate cose che nella vita ci sembrano tante importanze, invece non lo so. È vero, esatto. Signora, ecco. Noi la ringraziamo tantissimo. Grazie, prego, molto. Prego. Alla prossima, ci siamo. Ecco. Grazie. Buone cose a tutti voi e buon carnevale. E buon carnevale anche a lei. A voi. Grazie infinite. Alla prossima, grazie. Grazie.

Accedere alle scuole, fosse pure le prime classi elementari, era aleatorio ancora nei primi decenni del 1900, perché i figli dei contadini dovevano portare le oche o le pecore al pascolo ed erano comunque occupati negli infiniti lavori necessari per la sopravvivenza. Con inopportuno sarcasmo, i fioi dei siori, che avevano fatto e scuole alte, dileggiavano i coetanei campagnoli, asserendo che a costoro a vaca che aveva mangiato i libri. In realtà, maestra di vita era la natura stessa, e l'osservazione del mondo circostante si compendiava in proverbi e di modi di dire che si prestavano facilmente ad essere tramandati oralmente, così come ad essere memorizzati dalle nuove generazioni. Essi costituivano alla fine un patrimonio di saggezza che ne determinava il comportamento e ne garantiva la continuità. Spero, anche con questo libro, di avere contribuito alla riscoperta di una cultura immeritatamente condannata all'oblio. Non si poteva dir meglio. Sì. E andiamo con l'ultima canzone, allora direi. Allora. Non, je ne regrette rien. Andiamo oltre Alpe con Edith Piaf. Sì. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Entriamo di nuovo in studio con l'ultima citazione, un'ultima tranche, sempre a piede scalzi di Bruno Lorenzon. A prima gallina che canta. Il variegato universo degli uccelli d'allevamento comprende anche i colombi, da utilizzarsi in cucina, specialmente giovani, colombo giovane e gallina fatta. In particolare per la famosa soppa coada, specialità di Treviso. Ma non tutti mostrano di apprezzarli al di fuori dell'ambito gastronomico. Benché infatti essi rappresentino un'attrattiva turistica nelle piazze contadine, nelle piazze più che contadine cittadine, prestandosi a posare per le foto ricordo dei visitatori, non di meno le loro abbondanti deiezioni, cioè i schiti, sporcano pavimenti, davanzali, monumenti e statue, senza riguardo per le qualità degli illustri personaggi effigiati. Questa incontrollata profusione di materia, ossia il grande squacquaramento che se ne fanno per ogni dove, ha indotto alla constatazione che fioi e coombi smerda e case, nel senso che i bambini riferiscono in giro, appunto, i va squacquarando, quello che si fa o dice in una famiglia. D'altra parte si sa che coi piccoli parla, i grandi ga parlà. Anche se in apparenza abbiamo trascurato finora di parlare diffusamente, dobbiamo riconoscere che galli e galline erano e restano la costituente più numerosa del generico pollame e come tali sono destinatari di molte attenzioni, chiaramente interessate. appartengono alla loro famiglia i chechi o i chechini. La loro dieta è di solito meno sofisticata, essendo liberi di razzolare nei campi nutrendosi in modo naturale a scapito di semi, erbe, larve o lombrichi. Le galline invece sono nutrite quotidianamente col paston e col grandiol, che si disputano fino all'ultimo chicco, azzuffandosi tra di loro a conferma del proverbio riferibile agli esseri umani: quando che manca il gran e gaine se becca. La familiarità con galli e galline e l'osservazione delle loro abitudini sta alla base di molte sentenze e locuzioni entrate nell'uso comune. La più abusata suggerisce: gaina veccia fa buon brodo. Naturalmente il che non può essere inteso come semplice suggerimento gastronomico e non trova giustificazione la patente di stupidità condensata nell'espressione «el ga o aga un selvrel de gaina». Ha implicazioni morali invece la constatazione che a prima gaina che canta ha fatto il uovo, al pari dell'altra, è ovvia, i gai core in dove che sei gaine. La fierezza del gallo da parte sua ha suggerito altre perle di saggezza, come la seguente, che si può agevolmente trasferire ai comportamenti umani: do gainte un puner se becca. E niente, qui quanto all'abitudine di questo piccolo despota di annunciare con non richiesta puntualità il sorgere del sole, al giorno d'oggi il tradizionale sonoro chicchiricchi il più delle volte è diventato motivo di fastidio, quando anche non sia soverchiato dallo strepito dei veicoli che intasano le strade a tutte le ore. Perché nessuno che non sia costretto per motivi di lavoro a turni indesiderati si alza tanto presto da apprezzare un'alba lattiginosa e rendere omaggio alla divina aurora delle dita di rosa. Rimane da riferire un curioso scioglilingua, ovvero la versione nostrana della frase «hanno legato i galli», che fa riferimento all'abitudine delle revendore di portare al mercato i volatili legati a due per le zampe, un po' come Renzo ai capponi, che in Veneto suona così: iga, iga, igai. Igai, igai, igai. Igai, igai, igai. Esattamente. Dobbiamo dire che, insomma, che io ogni volta che leggo e rileggo queste, ma è simpaticissimo, queste perle, sì, diciamo, e da notare una cosa, che il buon Bruno Lorenzon non aveva mai praticato la campagna. Ah, no? Essendo un commerciante praticamente di caccia e pesca, essendo un personaggio, diciamo, cittadino, però si era così imbevuto della cultura contadina. Eppure è riuscito veramente ha reso in modo straordinario con quell'umorismo e quella bonomia, eccetera, che sono cose straordinarie. Io pensavo appunto che avesse sempre fatto il contadino. No, mai fatto. Va bene. Niente, allora, non ci resta altro che ringraziare ancora una volta le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, la signora naturalmente, perché la sua esperta, diciamo, contribuzione. Ringraziamo anche gli ascoltatori lontani, ecco, eccetera, sì, insomma, auguriamo a tutti loro una serena notte. Una serena notte e a risentirci alla prossima. Alla prossima volta. Bene, come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.